rientro in diretta per questo venerdì e dare inizio al mese di marzo con un Jazz Live che già nel Breakfast Club ha visto dei protagonisti al Torrione che magari ritroveremo un po' emozionato, come vi dicevo, per uno studio particolarmente popolato. E non è finita qui, perché aspettiamo altri ospiti. È una conduzione en plein air, tra l'altro, anche se la giornata è un po' uggiosa, ma andiamo con ordine perché parleremo anche di grandi esposizioni, visto la presenza che abbiamo qua in studio. Rinnovo il mio buongiorno con un caloroso abbraccio, accolgo Alfredo Pasquali. Ciao Alfredo. Ciao Willy. Allora abbiamo guest, special guest star. Valerio Sacca. Valerio Sacco, che salutiamo, un grande ritorno. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per avermi di nuovo qui. Basta la tua voce per presentarti. Grazie, insomma, spero non si sente troppo il Veneto che è riemerso. È tornato presente, insomma, nelle tue corde. Ricordiamo di Valeria, oltre che la co-conduzione pomeridiana, anche la presenza per quanto riguarda Jazz Live, e non dimentichiamo la rubrica in mostra. Tra l'altro a Palazzo Roverella, dove siamo stati presenti più volte, e poi in mostra con il Breakfast Club, ma fisicamente per esposizioni molto belle, ora attualmente c'è Toulouse-Lautrec, che è una mostra che ti consiglio. Magari avremo modo di ritrovarci. Dalla tua Verona cosa ci racconti, Valeria? Diciamo che la pioggia che vi accompagna qui in questi giorni, immagino oggi sicuramente mi ha colto un tempo un po' irlandese, potremmo dire, ecco, questa pioggerellina umidina, ecco, che è tipico invece della terra veneta, come tu ben sai ormai. Certo, tra l'altro mi attende anche a me un viaggio, ci scambiamo, vedi Valeria? Esatto. Detto questo, tu tra l'altro sei stata presenza costante sia al Torrione ma anche al Binario 69, confermi? Confermo. Ecco, adesso ti posso dire che sono diventato DJ del binario 69. Questa è una notizia incredibile. E anche in questo ci diamo il cambio. Un giovedì sì alternato sarò presente, e non solo per il accompagnamento musicale ai concerti molto interessanti, fra l'altro, anche per fare aperture, dare qualche notizia a proposito dell'arte e anche di uscite letterarie. Ma non divaghiamo troppo. Allora, visto che stiamo aspettando, chi stiamo aspettando, Alfredo? Beh, aspettiamo l'art director, il guru, il boss del Paradiso Jazz dell'Argi San Lazzaro, cioè Marco Coppi. Che penso sia in arrivo, e a breve daremo anche estensione di presentazione. Quindi ancora più gremito. Sì, meno male che è uscita Irma. Vedi, non c'era solo posto in piedi. Sì. Allora io inizio con un ascoltati per voi. Al Torrione non ho potuto presenziare lo scorso weekend, invece ieri ero al Binario 69 con questa band che riporta sonorità new jazz, non mainstream, anzi una ricerca originale del suono, seppur giovani, con un dosaggio di elettronica assolutamente presente ma vellutato, uno spazio cinematico e visionario per Ike and the Great Escape. Hanno portato anche dei vinili, quindi un'attenzione per le pubblicazioni musicali che danno al vinile la giusta attenzione. Ho rubato un brano del concerto e ve lo propongo in apertura di playlist al Jazz Live di oggi. fortissimo intreccio con tante emozioni. Il concerto di ieri è stato assolutamente coinvolgente anche da dance floor, se vogliamo, un concerto in crescita, una potenza per questi assoli al sax tenore, una ritmica seppur spesso dritta che è accompagnata dall'elettronica a volte in uno stile cinematico orchestra. Beh, del resto cinematica è la sonorità di Ike and the Great Escape per la rubrica Ascoltati per voi ieri al Binario 69. Mattina Breakfast Club in un last minute, visto che abbiamo lo spazio anche da dedicare, speriamo che arrivi presto tra l'altro il nostro Marco Coppi, l'edizione imminente di Paradiso Jazz, anche qui avremo una playlist a commento. Intanto un piccolo riassunto per quanto riguarda il Jazz Club il Torrione, che per il main concert, cioè per domani, anche se ormai sono tutti main concert, ognuno con un'identità eterogenea ma di grande importanza, domani abbiamo un musicista, Ethan Iverson, che Alfredo conosce molto bene. Io questa mattina ne ho data un'indicazione, un'anticipazione, però sicuramente parole di approfondimento sono ben gradite. A te Alfredo. Sì, innanzitutto so che ne hai già parlato stamattina, però un calendario del Torrione lo vediamo abbastanza velocemente, perché questa sera c'è il Tonino Horta Quartet, questo chitarrista nonché vocalist di questa musica brasiliana del Minas Gerais, e poi domenica nella serie Serico Tonale abbiamo i Cavalieri del Cornetto, che non è quello del bar, non è strumento. Ancora Sant, no, perché Andrea Inghisciano al cornetto e flauto, Davide Brutti al cornetto e flauto, Simone Weber alla spinetta, quindi dei suoni antichi moderni in qualche modo. E poi, come tu dicevi, main concert Ethan Iverson Trio, e qui lo troviamo con ovviamente Ethan Iverson al pianoforte, Thomas Morgan bravo e direi presentissimo in tanti gruppi di altissimo livello al contrabbasso, e Cash Bay Baby alla batteria. Dunque il classico trio di pianoforte, dove appunto tutto si gioca sul valore del pianista, perché se il pianista non è all'altezza è un po' salta un pallone, un po' che si sgonfia, no? Dopo un po' dal secondo pezzo uno dice ma che ore sono? E invece no, con Ethan Iverson questo prima non esiste, perché è questo minimalista che noi abbiamo conosciuto perfettamente in tantissimi anni di militanza nei Bell Plus. Come funzionava il Bell Plus, e vedremo se in questo trio Iverson si riporterà questa tradizione, questa memoria. Lui prendeva dei temi anche molto famosi, molto spesso anche dal pop o colonne rock, sonore, o colonne sonore, e poi li spezzettava in minimalismi e poco a poco ci costruiva dentro delle situazioni, insomma un gioco di matrioschi musicali che apparentemente così assenti, invece se stavi dentro al suo ragionamento ti portava in un vincolo, un tourbillon a queste di invenzioni. Ci sta, tra l'altro un grande intellettuale, perché oltre che insegnare studia il rapporto tra la danza e il jazz, ha rifatto brani come reinterpretato come Rhapsody in Blue, la saga della primavera, insomma ha un aspetto di classicità certo a modo suo ed originale, ma che è presente, ecco. E qui lo contraddistingo a un altro pianista che amo alla follia, che ho conosciuto, che è Alexander Hawkins. Che tra l'altro sì, bravissimo, due musicisti diversi completamente all'opposto, completamente, perché Hawkins è un musicista che sa armonizzare, inventare sia nell'accompagnamento che nella solo con una grandissima fantasia, ma molto esplicito, molto aperto, mentre Iverson è tutto, è molto più cool, molto più dentro, trattiene dentro. E devo dire che Hawkins, poi ha già fatto due apparizioni importanti al Torrione, ci sarà di nuovo con Roberto Taviano e Telner Love qua, ma più avanti, ne parleremo sabato 9 marzo, cioè settimana prossima, non tanto più avanti. Non chissà quanto. E devo dire che il disco in due, Ottaviano Hawkins, è veramente splendido. Certo. Quindi Hawkins non si smentisce mai, direi che è la sicurezza. Comunque, questo curiosità. Settimana prossima. E ora ascoltiamo un brano da Ethan Iverson e dal trio che abbiamo appena descritto. Lui ha pubblicato sia per Blue Note che per ACM. Who are you? Chi sei veramente? Bella domanda, già dal titolo del brano. A tra poco. Da dove vengo? Dove vado? colto da queste note è arrivato il nostro ospite, che tra l'altro ha un'attinenza anche con la classicità. Comunque, Ethan Iverson col suo nuovo trio lo troveremo per la giornata di domani al Torrione. Ma è il momento di un'importante anticipazione che seguiamo ogni anno, perché l'anticipo e l'edizione straordinaria, oltre che per la presenza di Valeria Sacco, anche per la presenza del Paradiso Jazz con Art Director Marco Coppi. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Bentornato. Buongiorno ai nostri microfoni. Grazie. E quando torna Marco Coppi è cere di primavera. Non si direbbe però, però ci Paradiso Jazz, sedicesima edizione, dal 18 di marzo, i nostri appuntamenti consueti all'Arci San Lazzaro. Certamente. Facciamo finta che sia una conferenza stampa, poi dopo facciamo il podcast e tu adesso devi cominciare con una presentazione generale. Certo, il 18 marzo partiamo con la sedicesima edizione. Questa edizione ha una nota di tristezza, il festival è dedicato interamente alla memoria di Franco Fanizzi, presidente del Circolo Arci, che purtroppo prematuramente è scomparso nel settembre scorso. Franco Fanizzi fu l'ideatore, il fondatore di Paradiso Jazz nel 2008, e con lui abbiamo fatto questa lunga cavalcata per 15 edizioni più qualche appendice intorno in periodo di lockdown, e Franco è stato il motore primario, fondamentale, senza il quale Paradiso Jazz, che è un festival ormai internazionale, non sarebbe mai nato. Lui mi cercò, mi contattò e dall'inizio mi chiese di fare direttore artistico, e così è andata, e con lui mi sono sempre confrontato sulle mie idee di programmazione, che ha sempre condiviso. E come sapete la mia idea di programmazione è un po' a 360 gradi, ovvero sia ospitiamo la tradizione, ospitiamo il fusion jazz con qualche puntata sulla ricerca, sull'innovazione, su gruppi magari sconosciuti qua da noi, che io sempre insieme a Franco ho tenuto ad inserire in cartellone appunto primaverile di Paradiso Jazz. In effetti ci avete viziato, perché col Paradiso Jazz viene portato in giro per il mondo e per generi musicali e per le epoche. Esatto. Ma rimane questa, anche questo solco, questa edizione, oppure cambia? Io direi proprio di sì, perché iniziamo il 18 marzo, sono tutti lunedì ovviamente, con Bobby Watson e il suo nuovo quintetto. Ecco, Bobby Watson è uno storico personaggio, direi, del post bop. Cosa dici, Alfredo? Sì, Bobby Watson è una delle tantissime incredibili scoperte di Art Blakey e Jazz Messenger, che è non solo Wayne Shorter o Kejar, ma Bobby Watson è un post parkeriano, rigidamente parkeriano, un fraseggio con una tecnica incredibile, che appunto ha costellato il modern jazz, direi, ed è un contralto di primo ordine. È un grandissimo, e con lui comunque abbiamo ancora un legame con la tradizione. Non c'è dubbio. In quel mondo caso avanti il bop. Si parte così. Io ho fatto il DJ in questo caso, perché ho trovato selezione musicale per ogni protagonista. Molto bene. Partiamo da Bobby Watson, che sarà lunedì 18 marzo. Buon ascolto. Set My Song, il brano che vi propongo. Thank you. non ti preoccupare, Marco, qui il tempo perde ogni dimensione. Esatto. Qui siamo in un fuso orario, il fuso fugico. Sì, quello... guardavi i nostri orologi, no. È come gli orologi di Alice, ognuno fa la sì, sua. Sì, qui siamo in uno studio, diciamo, quantistico, cioè sì. Il tempo e no, le cose. Della NASA, sta... che c'è sì. Ogni fuso è lo studio, orario. È uno studio quasar. Bella questa. Io volevo ringraziare Valeria qua con noi, che tra l'altro ha presenziato e è tornata a trovarci. Valeria Sacco, redattrice di Radio Città Fugico, per format creati, co-condotti da lei, oltretutto per la rubrica In Mostra, presenza per il Breakfast Club e nel Jet Live. Quindi la ringrazio per l'omaggio che ha portato, una bottiglia di rosso antico. E c'è un motivo, che... perché lei si ricordava, cosa che io non ricordavo avevi più. Avevi rimosso. Sì, che viva viva Radio Fugico, Città Fugico, meglio del rosso antico, che è un test incredibile da primo tempo. Intanto io faccio una battutaccia, siamo un po' dei rossi antichi, dai. Sì, sì, sì. Valeria presente anche ai lunedì del Paradiso Jazz, ricordiamo diversi concerti assieme, vero Valeria? Sì, stavamo ricordando prima fuori onda alcune delle dei gruppi che abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare nelle edizioni passate. Non ricordo Steve se Gadd era 18 o 19. Sì, abbiamo visto sicuramente Steve Gadd, Avishai Cohen con il suo quartetto. Diciamo che in generale la cornice del Paradiso Jazz è sempre un grande abbraccio, anche perché riempire la pancia con dell'ottimo cibo prima di ascoltare dell'ottima musica è sempre una scelta azzeccante. È la classica serata. E certo, completa. Ma per così la dire. Formazione di Bobby Watson. La formazione di Bobby Watson, che se avessi gli occhiali leggerei. Okay. Prestagli i tuoi, Alfredo. Allora, Bobby, poi c'è un personaggio interessante, Wallace Rooney Jr., che è un trombettista molto forte. C'è un Wallace Rooney padre anche. Sì, infatti io ho detto trombettista, questo è il figlio. Questo è il figlio. Okay. Tra l'altro Rooney venne in qualche altra edizione, non mi ricordo sì, quale formazione. In una formazione a sé. Attenzione che questo cartellone è un po' fitto di figli d'arte, dopo, okay. Dopo ci arriviamo. Quindi al pianoforte, poi ancora Williams. Al pianoforte Jordan Williams. Al contrabbasso Curtis Lundy, che mi ricordo o di aver ospitato o di aver sentito, non ormai faccio confusione, grandissimo contrabbassista, mi piacque moltissimo, poi con questo linguaggio qua è a casa sua. E alla batteria Victor Jones, quindi un, okay. Quarte, sì, un quintetto grande batterista, sì, Jones, è veramente un quintetto di musicisti di grande esperienza. Sai che abbiamo visto Valeria anche John Patitucci, di poco, grandissimo, grandissimo. A proposito di con Patitucci mi sono fatto una foto con l'ultima volta che lui ho venuto, gentilissimo, ho venuto, tra l'altro Child's Delight, mi sembra di ricordare, Danilo Perth, Patitucci, Jan Blake, Children of Delight, poi è tornato in duo anche. Noi abbiamo visto il concerto in duo E andai da lui e dici, sai, sono un musicista, sono un flautista. Ah sì, mi ricordo. Guarda, se io dovessi scegliere di essere un altro musicista nel mondo, vorrei essere te. Guarda, vedi, perché lui è completo, è incredibile. Ah, incredibile. Ti puoi immaginare che complimentone che è stato questo qui. Lui ci messo però sicuramente è stato gradito. Beh, guarda, sì, ci certo, scommetto. Sì, certo. Passiamo al secondo appuntamento e si cambia completamente. Ma registro. Ci stiamo con la pubblicità o rimandiamo dopo? Beh, ascolta, spostiamo la pubblicità. Non penso di essere licenziato per questi rischi. Lunedì 25 marzo, sì, appuntamento particolare, anche piuttosto nuovo per il nostro territorio, direi assolutamente nuovo. C'è Kinga Glick. Kinga Glick è una giovanissima, 24-25 anni, bassista polacca. E questa è una tua scoperta, che ogni tanto ti giri per il mondo, Austria, Svizzera, diciamo, Polonia, questa, sì. Questa è robina tua. Sì, sì, diciamo, lei è conosciuta già nel mondo, ha suonato parecchio in giro, poco in Italia. E credo assolutamente niente qui da noi in Emilia Romagna, e lei è una bassista virtuosa bestiale, suona anche il contrabbasso, ma soprattutto il basso elettrico è la sua, e fa queste performance con questi altri musicisti tutti polacchi dal nome impronunciabile, e quindi preparati durante la pubblicità, diciamo solo che c'è King al basso, poi ci sono tastiere, due musicisti alle tastiere, un fisarmonicista MIDI, quindi collegato all'elettronica, e naturalmente una batteria. King ha uno swing fusion straordinario, sì, sento,

sospetto di presentazione fuori onda con alcuni paragoni. A me questo musicista ricorda tantissimo il norvegese Nils Petter Molvær, anche lui per ECM ha portato dei lavori tra il minimalismo, l'elettronica, gli spazi diffusi, visionario e allo stesso tempo tecnicamente preparatissimo. Questa è un'altra prima scelta dell'art director di Paradiso Jazz, Marco Coppi, qui con noi, e stiamo parlando di Markus Stockhausen, che sento per la prima volta, ammetto. Sì. Avevo detto prima, nello spazio precedente della pubblicità, che questo cartellone è abbastanza ricco di figli d'arte. Questo è arte. E qui parliamo di Markus Stockhausen, figlio di Karl-Heinz Stockhausen, sì, che è stato uno dei più importanti musicisti del Novecento, almeno della seconda parte del Novecento, per quanto riguarda la musica elettronica, la musica d'avanguardia. Ma stiamo parlando veramente, il suo padre è stato un che resta nella storia della musica. Karl-Heinz fece anche un bellissimo concerto al Teatro Comunale di Bologna. Certamente, li ho visti, mi ricordo, venne più di una volta. Devo dire che c'è diversissime, ma c'è comunque tra Karl-Heinz e Markus il filo della spiritualità. Assolutamente sì. Parla che Free Spirits. Sì, sì, il concerto si intitolerà Free Spirits e Markus ha suonato molte volte nell'ensemble del padre. Markus Stockhausen alla tromba presenta questo concerto, appunto, che si chiama Free Spirits, e ha con lui Lino Capra Vaccina, sì, vibrafonista, percussionista eccelso, agli effetti e tutto, a tutto quanto, aggiungendosi Alireza Mortazavi, è un musicista persiano che suona il santur. Il santur è uno strumento a corde che si suona con le bacchette. Quindi persiano, Iran oggi, no? In più ancora Luca Formentini alla chitarra elettrica, che poi è collegata a MIDI. In questa registrazione non ci sono presenti tutti, ma al concerto sarà una formazione di quartetto, poi sì, si alterneranno. E la ricerca di Stockhausen, che ha questo meraviglioso suono, sì, stiamo, molto intenso, grande timbro, peraltro un timbro meraviglioso, è tutta rivolta in un certo senso alla spazialità della musica, cioè al come i suoni fluiscono proprio nello spazio fisico, ed era un pallino del padre che faceva addirittura smontare e rimontare gli auditorium dove teneva i concerti, perché diceva che è importante come il suono gira nella sala e non il violino a sinistra, allora se suono a sinistra lo sento, se no non lo sento più o lo sento meno. Quindi tra amplificazioni e sale fatte apposta, e al figlio è rimasta questa cosa della ricerca, poi della evocazione, quindi l'aspetto evocativo, bravo, proprio del qualcosa che chiama qualcos'altro, che viene da dentro, quindi un discorso, diciamo, da un dentro del musicista a un altro dentro, che è quello dello spettatore, cercando di creare un flusso, di un continuum. Il flusso è il concetto. Di ricerca e di comunicazione. E poi, tra l'altro, noi l'abbiamo conosciuto moltissimo nell'etichetta ECM, ma adesso ha cambiato etichetta e lavora per un'etichetta di Piacenza, Dark Companion di Max Martini, dove peraltro tra un po' ci darà anche il nostro Marco Coppi col suo gruppo, sì, perché lui è anche flautista valente. Ma qua è tutto magna magna. No, ma diciamola tutta, tra un po' sarà in un club vicino a Budrio a parlare di Beatles, anzi a suonare di Beatles. Sì, sì, a Area Punto Zero di Budrio, è una galleria d'arte molto particolare. Il 15 marzo faccio un concerto durante una mostra dove flauta e arpa con Cristina Giorgi facciamo una ventina dei pezzi dei Beatles. Interpretazione. Sì, sì, riarrangiati, molto, molto piacevole farlo. Appuntamenti completamente insomma diversi tra di loro, che sì, filo conduttore comunque del grande gusto, della curiosità nella ricerca, sì, perché, e anche nell'alzare l'asticella dell'ascolto. Sono cinque concerti laddove, appunto, come abbiamo detto, ci va dalla tradizione più vicina al bebop o post bop, al fusion, e con Stockhausen siamo in un'altra zona ancora. questo che produce Stockhausen, che sentiamo, è molto estatico, molto evocativo. Sì. Non tutti i brani sono così, ci sono dei crescendi e ci sono degli accenti jazzistici che vengono fuori. Sì, perché cioè, lui poi ha avuto anche più di un quartetto dove faceva jazz proprio. Però questa è una cosa molto particolare, dove sono convinto si creerà un'atmosfera d'incanto, perché... E io vi riporto sulla terra, visto che sono le 12:12, perché ricordo, come mi ha anticipato Valeria, ottima forchetta Valeria, compagna di cene assolutamente soddisfacente. No, questo non lo prendo perché no, aspetta, no, anzi, tutt'altro, ben contenta di condividere il convivio, ricordando che al Paradiso Jazz c'è la possibilità di ottima cena, ringraziando collaboratrici e collaboratori molto attenti e a disposizione di un pubblico, ottime forchette e anche curiosi di assaggiare la nostra tradizione emiliana romagnola e non solo. Grande qualità, grande musica, Paradiso Jazz anche per le edizioni. Allora diciamolo a tutti, diciamo anche per chi volesse prenotarsi, perché so che le prevendite vanno avanti. Certo, per prenotare la cosa più veloce è www.arcisanlazzaro.it. Quindi cena e concerto o anche concerto da allora, solo. Allora si prenota il concerto online, ok? E poi se si vuole cenare si chiama lo 051 627 9931 627 9931 e si dice voglio venire anche a cena. Se buon appetito. Hai preso il concerto puoi andare a cena. Per quei pochi che non fossero mai andati al Paradiso Jazz, ricordiamo che la cena è prima e il concerto dopo. Sì. Non si mischia rumore dei piatti. Non solo, no. Da quest'anno abbiamo fatto anche qualche altra volta alle 19:30, dalle 19 si cena in sala 77 che è sotto. Ah, è quella sotto, ottimo, che fatta, che è molto bello, con le cucine vicinissime. Poi si ha il posto prenotato in sala a mo' di platea, per cui tu arrivi, bellissimo, trovi il posto che e ti fai il concerto. Perfetto. E quindi questa è la strada. No, ma qui il merito è soprattutto di tutti i ragazzi che lavorano. Che ho citato anche. Però, certo, dobbiamo correre, abbiamo ancora due puntate da presentare. Ce la facciamo, io coi tempi lo sai. No, mi stavo ammaliando con Marco sto caso. Io saluto e abbraccio il nuovo presidente Matteo Cioni, cresciuto con Franco Fanizzi. Matteo Cioni è il nuovo presidente dell'Arci San Lazzaro e poi l'altro amico e segretario adesso Marco Muscas, con cui lavoriamo a stretto contatto per onorare questa iniziativa fondata da Fanizzi. Certo, intanto cambiamo completamente per questo quarto appuntamento invece con il Modern Mainstream Jazz di Christian McBride, contrabbassista già affermato, conosciuto in diverse rassegne, una capacità di interpretazione veramente forbita e una collaborazione di interplay con musicisti di alto livello. Da Sonny Rollins, anche lo stesso Bobby Watson peraltro. Sì, Bobby Watson iniziò con McBride iniziò con Bobby Watson che aveva 17 anni lui. Noi lo ascoltiamo e poi dopo rientriamo in diretta ricordando che Christian McBride sarà in formazione in quintetto mi pare. Sì. Anche lui. Sì. sempre dal curatore Francesco Parisi, magari è un malcelato invito a Valeria per una co-conduzione in mostra a Prea Musei San Domenico di Forlì, i Preraffaelliti. Appetitosa, direi. Intanto chiedo a Alfredo, chi abbina i Preraffaelliti nel jazz? Auguri. Appena ci penso, Abbiamo tempo per pensare. Uno per... che ripete la classicità ma la rimodella. Adesso vediamo. Dai. Beh, appunto su queste note mi è venuto in mente. Beh, tra questi forse Bobby Watson. Certo. Bobby Watson, sì. Certo. Classicità rivista. Classicità rivista. Ho chiesto questo proprio perché voglio condividere per un aiuto nelle mie rubriche del Breakfast Club. Christian McBride, New Joan, il brano che stiamo ascoltando sarà Fred Beldau. Ok, vengono fuori. Adesso vedi te. Già pronta la puntata. Dalla classicità all'invenzione, la riprendere e rielaborare. Brad Beldau, ok, promosso. Quando sarà Christian McBride? Lunedì 22 aprile. Sì, l'ho descritto in precedenza, sentite qua sotto la mia voce le corde di McBride. Prima c'era questo interplay tra sax e basso che era notevolissimo, Sì, molto intenso e anche di grande gusto. Beh, una conferma piacevole per il Paradiso Jazz e non solo. Quindi noi siamo già arrivati alla conclusione, visto che tempi puntuale, 12:19 minuti. Ovviamente il Jazz Live ritorna il venerdì prossimo, noi daremo approfondimento. C'è Bilevas. Aspetta, ho detto sì. Certo, sto dando qualche anticipo. Secondo te, dimentico Bill Evans saxofonista, sì, non anche quell'altro, perché se abbiamo quell'altro Bill Evans, non c'è più. Saremmo veramente dei fenomeni. Sì, uno ha scritto sulla pagina Facebook: chi è il direttore artistico? Dio? Sì, Jimi Hendrix e la chitarra. Beh, apprezziamo molto Marco Coppi, ma adesso non lo vogliamo evangelizzare. Sarebbe un po' adulatorio. Guarda, è il sassofonista. Ma la domanda di Bill Evans: porta sempre la bandana? Io l'ho sempre visto con la bandana. Sì, sì. Nonostante gli anni, porta sempre la bandana. Sì, e meno capelli, devo star zitto io. Comunque, Bill Evans ha questa caratteristica. Beh, Bill Evans, allora, tratto dal disco Van Joint, è il brano che ho selezionato perché la formazione sarà quella ed è per quello che ho selezionato tutto ciò. Questo è il più attinente, forse, al filo jazz fusion che noi intendiamo, certo. GRP anni 80. Queste cose, come ad esempio abbiamo riportato Steve Gadd con Valeria per introdurre questa playlist, e quindi insomma un ritorno che abbiamo visto sia da frontman che da sideman in diverse formazioni, qui è da protagonista, e direi che è un'ottima conclusione anche per farci ballare un po'. Sì, sì, è un grande divertimento. Sì. Quello che produce sul palco Bill Evans, dove senti musicisti straordinari che concedono molto anche proprio al gioco, piacere, al divertimento, certo, al coinvolgimento, all'aspetto leggibile, certo. Qui viene il gruppo, è Bill Evans and the Vance Band All Stars, lui al sassofono, alle tastiere all'Hammond c'è, cioè, John Medeschi, grande tastierista, suonava, sì, con Josh Schofield. L'ho sentito. Beh, ma è Medeschi, è un... Martin and Wood? Sì, è John Medeschi. Sì. John Medeschi. L'eroe. Sì, sì. Accidenti, Marco. Che... Alla batteria c'è Kate Carlock, batterista, e poi al basso, eccoci qua, all'altro figlio d'arte, signori e signori, Felix Pastorius. Dai! Figlio del grande genio Jaco Pastorius. Virtuoso, io lo ricordo nel primo disco che ascoltai di Bill Evans, parlo di 20-25 anni fa, e lo trovai in un progetto relativo all'intersezione con l'hip hop, addirittura, perché ha questa capacità. Lui era maestro del free grass, incrociare la musica kanjan con il grunge, con tutto. Sì, ma ha suonato anche con stelle della musica pop, certo. E poi soprattutto però quando era molto più giovane con Miles Davis. È vero, infatti, giusto. Ma questi figli d'arte, c'è da farci un ragionamento, perché c'è quelli come Felix Pastorius, che in qualche modo seguono l'orme del padre, chi le interpreta come Marcus Stockhausen, e quelli che invece come Fio di Mingus fa tutt'altro. Ottimo allora, musicista, tra l'altro. Infatti. Sì. E Mersenne Ellington, che invece portava in giro l'orchestra del padre quando il padre non c'era più. Insomma, come liberarsi da tanta... da questa eredità. È un po' pesante essere figlio di qualcuno. È anche un vantaggio, però. Insomma, no, è pesantissimo, però... è difficile anche perché mai... non puoi raggiungere, sovrapporre, raggiungere, cioè crearti figlio, una tua identità. Felix Pastorius è un bravo bassista, lo sentiremo poi dal vivo, ma non potrà mai, ma è ovvio, cioè, non, di Jaco ce n'è uno, cioè, e non facciamo dei paragoni, ci, non si possono fare i paragoni, anche ci sono alcuni nomi che ce n'è uno, e arrivederci, è come Christian Andrei che canta canzoni del padre con la voce del padre, sì, è un però il padre è il padre, con tutto il rispetto, certo. 12:24 minuti, adesso sì che siamo arrivati alla conclusione, perché a breve daremo la linea al GR di Radio Popolare. Torneremo venerdì prossimo, sempre alle 11:30. Ritroveremo Valeria Sacco in una delle prossime puntate. Noi l'aspettiamo perché è sempre graditissima redattrice di Radio Città Fujiko. Grazie Valeria. Grazie Valeria. Mille a voi. Ricordo a Marco Coppi che noi seguiremo ogni singolo concerto. Benissimo. Lo riportiamo poi con l'edizione della 16ª Paradiso Jazz, Arciparadiso a San Lazzaro, all'interno del Jazz Live, come seguiamo il Torrione Jazz Club di Ferrara. E con tutto ciò io vi auguro un buonissimo weekend. E ringraziamo anche Marco Coppi. Ma certo, non l'abbiamo ringraziato abbastanza, sì, non abbastanza. Voglio dire. Ma come Dio. Insomma, come Dio. Quella è una battuta che la lasciamo là, non si sa mai, resta questo. Una buona giornata, grazie, grazie a voi, ciao a presto, tutte, ciao. A